viaggio con Easy Riders. Nonostante le intemperie, gli sbalzi di temperatura, eccoci pronti di nuovo a viaggiare in una fascia oraria che grazie al suo alla luce che presenta e in esterno, devo dire che possa essere assolutamente più consona alle sonorità, alle vibrazioni sonore, per meglio definirle, di Easy Rider, che parte ufficialmente oggi lunedì 5 maggio per gli ultimi, insomma, fino alla fine di questo mese ci sentiremo direttamente dalle 21 alle 23. Io il primo ringraziamento lo faccio alla collega Claudia, che anche lei oggi per la prima volta, insomma, dopo un po' di tempo, oltre un anno, è tornata in onda in fascia diurna, e ovviamente un in bocca al lupo. Io spero di ritrovarvi numerosi, esattamente come succedeva invece ultimamente durante la pausa pranzo. Ora invece siamo più rilassati, vedo già che arrivano moltissimi messaggi. Allora, io in fascia serale sono, ripeto, molto contento di essere di nuovo tra voi, visto che non lo so, trovo che l'atmosfera sia decisamente più indicata, ecco, per quelle che sono le sonorità. Anzi, direi che il primo pezzo è un pezzo tributo a una persona che oggi compie 60 anni, quindi il 5 maggio del lontano 48 nasceva Bill Ward, noto batterista, ma soprattutto nota la band in cui ha suonato sicuramente nella prima decada di attività e poi è anche tornato. Bill Ward era ovviamente il batterista dei Black Sabbath. Allora voglio aprire questa puntata di Easy Rider serale con un brano dei Black Sabbath che ci riporta indietro al 1970, dopodiché ci risentiamo per quelli che sono i contatti consueti. Ripeto, state già iniziando a scrivermi, comunque aspettate ancora un attimo, perché tra poco, insomma, il viaggio notturno di Easy Rider ci darà delle grandi soddisfazioni, come credo e penso. Dimenticavo, Mox Cristadoro al microfono e alla console di queste due ore. Sleeping Village, un villaggio dormiente, ed è in realtà il contrario di ciò che noi siamo e ciò che noi vogliamo rappresentare qui a Rock FM. Black Sabbath dall'album omonimo del 1970. come avrete potuto sentire, trattasi di grandissimo batterista Billy Ward, direttamente dalla formazione dei Black Sabbath, direttamente dal 1970 con un capolavoro della storia del rock. Ecco che sta partendo in sottofondo The Warning, ma noi la sfumiamo perché ve l'ho già proposta più volte e insomma non è il caso di sprecarla così adesso, anche perché ci sono molte cose da dire, molta musica da farvi ascoltare per queste due ore, ma la cosa importante in questo momento è cominciare a ringraziare voi tutti che siete all'ascolto e tutti gli amici, lo hanno fatto, lo so, lungamente durante la giornata i miei colleghi Edo, Ariel e Max, ma gli amici che ci hanno veramente onorato del loro calore, del loro affetto, della loro presenza e si sono presentati in Piazza Farini, in quel di Russi, in provincia di Ravenna, esattamente il 1° maggio. Io ho un ricordo veramente meraviglioso, come noi tutti, di questa serata nella quale si è esibita in una discreta forma la Rock FM All Stars Band, quindi tutti noi di Rock FM che stiamo compiendo questo farewell tour. La prossima data, approfitto per ricordarla, è questo venerdì in centro a Milano, quindi in piazzetta Liberty tra piazza San Babila e piazza Duomo. Insomma, un grandissimo abbraccio a tutti gli amici intervenuti, a tutti gli organizzatori della grande festa del 1° maggio a Russi e un abbraccio anticipato ai ragazzi e a tutti coloro, insomma, forniranno il loro calore, il loro supporto anche nella prossima puntata del Farewell Tour della Rock FM All Stars Band, questo venerdì. Allora, fatto i saluti di rito, il 335-100-7777, come vedo, è già abbondantemente a vostra disposizione, così come le caselle di posta elettronica mox@radiorockfm.com o mox@rockfamily.it. Allora iniziamo a leggere un po' di nomi, di amici che scrivono puntuali. Partiamo dal Fa, ovviamente da Genova. Andre che dice: un piacere riascoltarti in fascia serale, meno frenesia e meno sbattimento, molto bene. Mauri dice: questa sigla a quest'ora è fantastica, bene. Un saluto anche dal Notturno, è il caso di dire che ti trovi veramente nella collocazione giusta, almeno come fascia oraria. Poi un benvenuto anche da parte di Cattivic, un ben ritrovato ovviamente. Poi c'è chi semplicemente mi scrive: io ci sono. Poi un saluto a Volfango, un saluto a Dale, bartender, che lavora proprio qui sotto e quindi mi fa molto piacere ritrovare anche tra i messaggi. Fungo e Veronica, Romagna presente all'appello, un saluto, grazie del caffè e della birra. Ovviamente gli ascoltatori che abbiamo la fortuna di incrociare, non solo li abbracciamo circolarmente, ma gli offriamo anche caffè e birra. Dario 56 dici: per quanto riguarda la libertà di trasmettere la musica che fate, potete star sicuri che Zena c'è, insomma, in qualche modo. Zena, si sta parlando ovviamente di Zena. Daniele da Firenze dice: orario perfetto con lo stereo casalingo e le cuffie sprofondate in poltrona. Va bene, allora io farei partire il prossimo pezzo nel frattempo, è un pezzo che ci farà letteralmente viaggiare. Si parla di Gong, un gruppo che io amo profondamente, specie con questo disco. Chi mi segue da parecchio lo sa, il vinile sta roteando sul piatto come è consuetudine ad Easy Rider. Si intitola You, è del 1974 e conclude una trilogia strepitosa di musica che ha veramente influenzato moltissimo gruppi psichedelico progressivi come gli Odric Tentacles, tanto per fare un nome. E questo è You Never Blow Your Trip Forever. Io aspetto i vostri numerosissimi messaggi e vi ridò di nuovo il benvenuto all'ascolto. Dopo vi do altre notizie relative, insomma, alle attività della grande famiglia di Rock FM. Questi sono i Gong. Yeah. Thank you. Il viaggio sonico è garantito, è sempre garantito, e questo era un direi perfetto esempio di quello che ci accingiamo a fare, a vivere, anche se in realtà l'eclettismo contraddistinguerà sempre, sempre queste due ore in mia compagnia, in compagnia di Mox, che vi vuole salutare, Francesco da Forlì, neopatentato 1380 del primo maggio, vuole complimentarsi con la Rock Famous Stars Band per la bravura, grazie, e dite alla gente di non perdere il vostro spettacolo perché è fantastico, e poi è stato bello abbinare le vostre voci ai volti. Ti avevo a fianco mentre parlavi con due spose prima del concerto, con due spose, ma non mi sono accorto di avere a fianco due spose prima che provassi la batteria, ma sono timido e avevo soggezione a presentarmi. Grazie per la fantastica serata, ora con la patente mi sento della famiglia. E lo sei indipendentemente dalla famiglia. Saluti a Serena da Savona, presente all'appello anche lei, saluti a Camarilla Brilla, saluti a Roby da Genova che chiede appunto di essere lanciato, lanciaci attraverso l'etere, verso le stelle e nell'oscurità assoluta. Poi altri amici, dottor Andre da Genova dice bentornato all'orario da veri Easy Rider, e poi fa più che una domanda una speranza: con la banda verrete a Genova? Il 31 gli studi del Rock FM saranno aperti? Beh, saranno aperti nella misura in cui noi siamo dentro, per cui per forza. È chiaro che se voi che avrete voglia di venirci a trovare, se sarete in tanti, è ovvio che ci vedremo al di fuori degli studi, questo è sicuro, perché verremo ad abbracciarvi personalmente, questo è il nostro intento. Poi il neopatentato 1817 ringrazia per la grandissima serata che ci avete fatto passare a Russi. Sono al lavoro fino alle 3, ma almeno fino alle 23 la compagnia sarà ottima. Ma anche dopo, dai, dopo arriva Maurizio. Saluti ad Andrea Sacco, saluti all'amico che sta registrando, come un altro amico, appunto Mauri, che sta registrando su cassette. Insomma, sono notizie che fanno piacere. Io non vorrei emozionarmi per queste cose. Zena Isiar, emozioni forti, il cuore spicca il volo, la mente è rilassata. Insomma, tanti pensieri molto belli, molto poetici, che insomma mi fanno apprezzare ancora di più l'essere nell'etere a quest'ora. Grazie per i gong, questo è l'amico Alan. Poi Roby Taxi dice: ascolto la radio alla sera, comunque sebbene io pazzo di Claudia ti apporgo i miei saluti. Guarda che Claudia non te la perdi, devi solo sintonizzarti in un altro orario e Claudia è sempre con noi, esattamente come ci sono io. Franz Max dice: non ti abbandoniamo, buona serata, grazie mille anche a te. Un saluto a Easy, a Frinz 78 dice: si digerisce da Dio. Grandi viaggi con i gong anche in fascia serale, questo è Demetrio e famiglia. E allora il prossimo pezzo invece ci fa staccare con il suono psichedelico dei gong e ci fa entrare in una sonorità tipica da New Wave of British Heavy Metal, anzi uno dei gruppi più importanti della New Wave of British Heavy Metal, un super trio che nasce proprio alla fine degli anni 70, quindi nel 79 erano già attivi, ma è nell'80 che pubblicano il loro album d'esordio, l'omonimo, un trio, Angel Witch, quindi questo è un angelo ma è anche una strega. E la canzone infatti è Angel Witch, quindi l'angelo strega.